Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Roberto Stronati, 50 anni di Simonetta. Una storia di stile e di amore per i bambini. Di Anna Marino. È dal 71 che sono in azienda, in Simonetta. Noi tutti i giorni abbiamo dei bambini o che provano sfilate. Per me vedere questi bambini che girano tutto il giorno per l'azienda è una cosa incredibile. Mi ringiovanisce, vedo questi bambini che giocano. E oltretutto poi adesso alla mia età, 73 anni, ho anche 3 nipoti, quindi noi nel nostro piccolo abbiamo fatto sempre anche delle operazioni di charity, perché gli ultimi dati poi che leggiamo, che ci sono nel mondo 6 milioni di bambini che non arrivano a 6 anni perché non riusciamo a dargli un po' di latte, un pezzo di pane, insomma è una cosa molto molto triste. Circondata dall'infanzia, l'impresa di famiglia Simonetta, che in Roberto Stronati è il suo presidente e la sua seconda generazione, ormai è arrivata ai 50 anni di attività nel settore dell'abbigliamento per bambini. Oggi registra un fatturato per il 2012 di 42,7 milioni, in aumento del 7% sull'anno precedente, e che riguarda l'Italia per il 45% e l'esportazione per il 55%. La produzione annuale è di oltre 800.000 capi d'abbigliamento e 50.000 paia di scarpe, che vengono distribuiti nelle migliori boutique e department store di tutto il mondo. Lo stabilimento principale conta 152 dipendenti, ai quali si aggiunge un indotto di altre 200 persone. Ma Simonetta nasce in un momento storico particolare, quando ancora i vestiti si facevano in casa, a mano, soprattutto quelli dei bimbi, nella prima metà degli anni 50, per opera di Maria Bianca Mazzarini Stronati, la quale decide di aprire a Iesi, una cittadina marchigiana di origine medievale, una piccola sartoria per bambini. Nostra madre, che ha fondato l'azienda negli anni 50, da giovane, prima di sposarsi, lavorava in una sartoria. Dopo sposata, non avendo nemmeno problemi economici, questo hobby così che aveva da giovane l'ha continuato anche dopo. E lei in casa vestiva un po' tutti, vestiva i nipoti, vestiva se stessa, vestiva le cognate. Io mi ricordo, piccolissimo, mi trovavo sempre in giro i tessuti, la macchina da cucire. Addirittura mi ricordo che una sorella di mia madre, sposata e trasferita a Napoli perché il marito era un funzionario dell'IRI, e lei aveva 2 bimbi, andava a fare acquisti al Vomero. Andando al Vomero, in una boutique che ancora serviamo, parlando così della sorella che aveva questo hobby, la signora incuriosita disse: ma perché non mi fai conoscere magari delle cose che fa tua sorella? E così lei partì un giorno insieme a Simonetta, mia sorella, ecco il nome dell'azienda, che era stata la prima a entrare nella società di famiglia. Partirono con una valigetta e andarono portando dei capi, così piccoli prototipi, da questo boutique del Vomero, e da lì si può dire che è nata poi l'azienda. Da hobby a impresa, Maria Bianca presta estrema attenzione a materiali e taglio. A questa esclusiva linea di abiti, Maria Bianca, ancora attiva in azienda oggi, dà il nome di una delle sue figlie, Simonetta, e con l'aiuto dei suoi 3 giovani figli, Roberto, Simonetta e Valeria, il piccolo laboratorio si evolve fino a diventare nel 1981 una realtà industriale, la Simonetta S.P.A. C'è il pallino dell'imprenditrice, assolutamente. Non è che abbia fatto, non so se ai suoi tempi se è riuscita a fare la quinta elementare, però è nato con il pallino dell'imprenditrice, perché per noi è stata sempre una maestra di vita, una maestra di cultura, di modo di fare. Poi questa voglia proprio di fare qualcosa di suo, ma già da giovane credo che questa cosa fosse, ce l'avessi in pancia. Io ho delle foto, quando avevo 4-5 anni, avevo dei pagliaccetti con dei volant, cioè, mi vestiva da bambina, eravamo io e mia sorella Simonetta, io ero vestito come quasi Simonetta, nonostante fossi un maschietto. E quindi vedendo poi i risultati, voi delle amicizie che aveva, dei parenti, eccetera, potevo dire: mamma mia, che cosa, non lo troviamo in giro, cose così, e lei disse: vabbè, si è messo in casa all'inizio, poi, insomma, tutta una storia che poi magari il 90% delle aziende marchigiane e delle piccole e medie aziende hanno cominciato così, che si comincia in un garage con 2-3 persone, poi si sale in un appartamento e poi dall'appartamento, a distanza di 10 anni, si fa 4 mura, sì, no? E noi abbiamo fatto tutta questa scaletta partendo dall'azienda che era individuale, insomma, il nome di mia madre. Poi nel 70 divenne un SNC e nell'80 passiamo alla società per azioni. Il nome dell'azienda è legato alle radici di famiglia. Ognuno ha trovato il suo ruolo nell'attività della mamma. E il ricamo sui passaggi generazionali che ha fatto Maria Bianca Mazzarini Stronati porta la sigla di famiglia. C'è una ricetta di famiglia perché Simonetta e anche Valeria ha lavorato con mia madre fino a 7-8 anni fa. E noi andavamo alle fiere, addirittura andavamo a Francoforte, la fiera che si chiamava Interstoff, si andava a Cernobbio, c'era Villa d'Este, c'era la fiera dei tessuti, si andava a Milano, si andava a Parigi. Io mi sono occupato del resto, l'organizzazione e quant'altro. Le sorelle, si mette Valeria, dello stile, insieme a mia madre, quindi il DNA è rimasto, quindi sicuramente l'esperienza, il know-how di mia madre è stato trasferito alle due sorelle. E adesso c'è la terza generazione, quindi c'è la figlia di Simonetta che aiuta mamma nello stile. Io ho i figli, Barbara che segue, che è responsabile dell'export, Andrea che segue le produzioni delocalizzate, poi l'ultimo arrivato, il figlio di Valeria, che segue il retail e l'e-commerce. E queste cose sicuro sono state tramandate, prima la seconda generazione che siamo noi, adesso noi stiamo trasferendo alla terza generazione. Come è cambiato il bilanciamento vita e lavoro delle generazioni? Gli insegnamenti della capostipite dell'azienda riguardano una grande capacità di lavorare e l'attenzione al risultato. Mia mamma adesso sta in casa con Valeria, ha 96 anni, non si muove moltissimo perché insomma c'è un po' di acciacchi, però fortunatamente ancora è bella lucida, anzi. Da mamma c'è da dire questo, che lei quando abbiamo costruito e anche quando lavoravamo in un appartamento, lei abitava sopra. Poi ci sono trasferiti nella zona, appunto abbiamo fatto questa costruzione industriale e lei andò a abitare lì. Lei era capace di costruirsi il cartamodello, di tagliarsi il tessuto sopra il cartamodello e poi alla sera, siccome abitava appunto di fianco all'azienda, si metteva a macchina e la mattina tu venivi, trovavi su un manichino, trovavi l'abito. Diceva, ma questo quando è nato? È nato stanotte. Negli anni 90 il marchio Simonetta si espande sui mercati esteri e diventa un punto di riferimento internazionale per stile ed eleganza nella moda bambino. Oggi, accanto a Simonetta, la prima linea dedicata alle bambine da 4 a 16 anni, sono presenti le linee Simonetta Mini, per bambini da 1 a 7 anni, Simonetta Tini, per neonati 3-24 mesi, e Simonetta Shoes, una linea di calzature per primi e secondi passi, che segna anche il debutto della Simonetta SPA nel settore del licensing e che oggi vede la partnership con Andrea Montelpare. Il ruolo di Roberto Stronati è stato quello di imprimere questa e altre svolte all'impresa, come spesso capita nei passaggi di testimone tra generazioni, e il suo ingresso è arrivato al momento giusto. Quando mia madre mi chiese di entrare in azienda, io lavoravo, avevo famiglia, avevo due figli, e mia mamma mi dice, vieni a darci una mano perché stiamo ricevendo diversi ordini, dobbiamo insomma allargare un po' l'orizzonte. Io feci per un periodo, cioè uscendo dal lavoro, sono stato per qualche mese in azienda, nella bottega, così a vedere un attimo come funzionava. Poi alla fine il lavoro mi ha affascinato, anche perché, ripeto, da giovane, anche quando studiavo, ero sempre in mezzo ai bottoni, ai ricami, così, quindi ero nato un po' in quell'ambiente. E poi sì, decisi di lasciare e quindi... Nel 2000 viene creato un settore aziendale dedicato alla gestione dei marchi su licenza. Nel 2001 viene lanciata la linea Roberto Cavalli Angels, prodotta e distribuita dalla Simonetta SPA su licenza mondiale della Roberto Cavalli SPA. Nel 2003 è la volta di Roberto Cavalli Devils e nel 2006 di Roberto Cavalli Newborn. Nel 2005 viene siglato un accordo con il gruppo Tod's SPA per la produzione e distribuzione di una linea bambino o bambina con marchio Fay Junior. Nel 2010 ha inizio la partnership con il gruppo LVMH per il design, la produzione e la distribuzione della linea Kids e Baby del marchio Fendi. E la famiglia, via via, si è per così dire ampliata, anche a livello internazionale. Io ricordo sempre con molta simpatia quando facevamo i primi prototipi, adesso mi rifovo a Roberto Cavalli, facevamo i primi prototipi di Cavalli, che è un genere lontanissimo dal mondo Simonetta, portammo i primi campioni a Sesto Fiorentino a far vedere ad Eva Cavalli. Andai io con dei collaboratori, portammo queste cose, erano pantaloni, camicie, stirati come noi stiravamo Simonetta, cioè quasi inamidati, no? Portammo questi capi e mi ricordo c'era Eva Cavalli che segue la linea Bambino, e lei c'era sempre con dei sabots in azienda, vede questi capi, li buttò sul pavimento, poi si pistò sopra, prese una camicia, ci fece quattro nodi, poi disse: Roberto, questo è Cavalli. Noi ci guardammo e risparmieremo 15 minuti di stiro. Il lato umano della moda per i bambini è fortissimo per Simonetta, che da sempre, tra donazioni e iniziative di beneficenza, segue le situazioni più disagiate che riguardano i piccoli del mondo. L'ultimo è stato, se non ricordo male, gennaio PT Bimbo. Abbiamo comprato 600 pigotte dell'UNICEF e le abbiamo regalate e portammo Beppe Fiorello, che era venuto come testimonial. E una cosa non programmata, finita la conferenza stampa, eravamo lì per regalare le pigotte ai vari giornalisti, amici che erano lì, e lui dice: fermi tutti, qui facciamo un'asta. E raccattò altri 4-5 mila euro, oltre a quelli che avevamo già dato per l'UNICEF. Il bambino è il nostro futuro, dice Roberto Stronati, e indica i valori che deve trasmettere la società e anche un'azienda come Simonetta, al di là di qualsiasi difficoltà economica. I bambini assolutamente si salveranno da questa crisi, perché il nostro futuro sono loro, e comunque dovremo aiutare quelli meno fortunati. Il nostro piccolo faremo del tutto. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.